100. Spaghetti con le acciughe. Per minestra di magro è appetitosa. Prendete spaghetti mezzani, che sono da preferirsi a quelle corde da contrabbasso, eccellenti per gli stomachi degli spaccalegne. Grammi 350 sono più che sufficienti per 4 persone di pasto ordinario, e per questa quantità bastano 5 acciughe. Lavatele, nettatele bene dalle spine e dalle lische, tritatele alquanto con la lunetta e ponetele al fuoco con olio buono in abbondanza e una presa di pepe. Non le fate bollire, ma quando cominciano a scaldarsi, aggiungete grammi 50 di burro, un poco di sugo di pomodoro, conserva e levatele. Condite con questo intingolo gli spaghetti cotti in acqua poco salata, procurando che restino durettini.